Dall'espressione malinconica assunta da Charlus mentre parlava della principessa di Cadignan, avevo facilmente arguito che quella novella non gli evocava soltanto il piccolo giardino di una cugina indifferente. Cadde in una profonda fantasticheria e, come parlando a se stesso, «Le secrets de la princesse de Cadignan», esclamò. «Che capolavoro! Com'è profondo, com'è doloroso! Tutti quei timori di Diane, che l'uomo amato scopre la sua cattiva reputazione, che verità eterna, ben più generale di quanto non sembri, quante risonanze insospettate!» Charlus pronunciò queste parole con una tristezza nella quale doveva tuttavia trovare, lo si sentiva, un qualche fascino. Certo, non sapendo esattamente in quale misura i suoi costumi fossero o no conosciuti, il barone tremava da qualche tempo al pensiero che quando fosse tornato a Parigi e lo si fosse visto assieme a Morel, la famiglia di questi potesse intervenire e compromettere così la sua felicità. È probabile che fino allora tale eventualità gli fosse apparsa solo come qualcosa di profondamente sgradevole e penoso. Ma il barone aveva un forte temperamento artistico e adesso, confondendo la sua situazione con quella descritta da Balzac, egli si rifugiava, per così dire, nella novella e alla sventura che forse lo minacciava e non smetteva comunque di spaventarlo, opponeva la consolazione di trovare nella propria ansia ciò che Swann e anche Saint-Loup avrebbero definito qualcosa di molto balzacchiano. L'identificazione con la principessa di Cadignan gli era stata facilitata dalla trasposizione mentale che gli stava diventando abituale e di cui aveva già fornito diversi esempi. Essa era del resto sufficiente perché la semplice sostituzione della donna come oggetto amato con un giovane uomo scatenasse subito intorno a quell'oggetto tutto il processo di complicazioni sociali che si sviluppano intorno a una relazione normale. Quando per una ragione qualsiasi si introduce una volta per tutte un cambiamento nel calendario o negli orari, se si fa cominciare l'anno qualche settimana dopo o si fa suonare la mezzanotte un quarto d'ora prima, poiché le giornate saranno pur sempre di 24 ore e i mesi di 30 giorni, tutto ciò che consegue dalla misura del tempo rimarrà identico. Tutto può essere stato cambiato senza che ciò provochi alcun turbamento, già che i rapporti fra le cifre sono sempre uguali. Così è delle vite che adottano l'ora dell'Europa centrale o i calendari orientali. Sembrava addirittura che in quella relazione giocasse un ruolo l'amor proprio che si prova nel mantenere un'attrice. Quando, sin dal primo giorno, Charlus s'era informato sul conto di Morel, aveva certo saputo della sua umile estrazione, ma una demi-mondaine che amiamo non perde ai nostri occhi nulla del suo prestigio per essere figlia di povera gente. In compenso, i noti musicisti cui il barone aveva fatto scrivere gli avevano risposto, e nemmeno per interesse, come gli amici che presentando Swann a Odette gliel'avevano dipinta più difficile e ricercata di quanto non fosse, ma per semplice banalità di uomini in vista che sopravvalutano un debuttante. «Oh, grande talento! Posizione magnifica, considerando naturalmente che è un giovane, assai apprezzato dagli intenditori, farà molta strada!» E con la mania di parlare della bellezza maschile, tipica di chi ignora l'inversione, e poi è bello vederlo suonare, figura come nessun altro in un concerto, bei capelli, movenze eleganti, ha una testa incantevole, sembra il violinista di un quadro. Così Charlus, già sovraccitato da Morel che non gli taceva di quante proposte fosse oggetto, era lusingato di portarlo con sé, costruirgli un nido dove potesse tornare sovente. Il resto del tempo, infatti, lo voleva libero, come richiedeva la carriera nella quale Charlus, per quanto denaro dovesse dargli, desiderava che Morel perseverasse. Sia in nome del principio molto germant che un uomo deve fare qualcosa, che si vale solo per il proprio talento, e la nobiltà o il denaro sono semplicemente lo zero che moltiplica un valore, sia per il timore che, in ozio e sempre accanto a lui, il violinista si annoiasse. Infine, non voleva privarsi del piacere che provava quando, in occasione di certi grandi concerti, poteva dire a se stesso: «Colui che in questo momento viene applaudito, stanotte sarà da me». Le persone eleganti, quando sono innamorate, e comunque lo siano, pongono la propria vanità in quel che può distruggere i vantaggi anteriori nei quali la loro vanità abbia trovato soddisfazione. Morel, sentendomi del tutto privo di animosità nei suoi confronti, sinceramente affezionato a Charlot e d'altra parte di un'indifferenza fisica assoluta nei confronti di entrambi, finì col manifestarmi gli stessi sentimenti di calorosa simpatia di una cocotte, la quale sa che non la desiderate e che il suo amante ha in voi un amico sincero che non cercherà di farli litigare. Non solo mi parlava esattamente come un tempo Rachel, l'amante di Saint-Loup, ma stando a quanto Charlot mi riferiva, gli diceva anche, parlandogli di me in mia assenza, le stesse cose che Rachel diceva di me a Robert. Infine Charlot mi diceva: «Vi vuole molto bene, così come Robert ti vuole molto bene». E come il nipote da parte dell'amante, era da parte di Morel che lo zio spesso mi chiedeva di andare a pranzo con loro. Non c'erano, d'altronde, meno burrasche fra i due che fra Robert e Rachel. Certo, quando Charlie Morel se ne andava, Charlot non finiva di elogiarlo e ripeteva compiacendosene che il violinista era così buono con lui. E tuttavia era visibile che Charlie, anche alla presenza di tutti i fedeli, aveva spesso l'aria irritata, anziché mostrarsi sempre felice e sottomesso come il barone avrebbe desiderato. Questa irritazione giunse anzi in seguito come conseguenza della debolezza che spingeva Charlot a perdonare a Morel i suoi atteggiamenti sconvenienti, sino al punto che il violinista non cercava più di nasconderla o addirittura la esibiva. Ho visto Charlot accolto all'ingresso in uno scompartimento dove Charlie stava con certi militari suoi amici, dalle alzate di spalle del musicista, accompagnate da strizzate d'occhio ai compagni. Oppure faceva finta di dormire, come sopraffatto dalla noia di quell'arrivo, o ancora si metteva a tossire, gli altri ridevano, affettavano per scherzo il parlare sdolcinato degli uomini come Charlot, attiravano in un angolo Charlie, il quale finiva per tornare come a forza accanto a Charlot, il cui cuore era trafitto da tutte quelle frecce. È inconcepibile che le abbia sopportate, e tali forme, ogni volta diverse, di sofferenza, ponevano di nuovo a Charlot il problema della felicità, lo costringevano non solo a chiedere di più, ma a desiderare dell'altro, giacché la precedente combinazione era ormai guastata da un orrendo ricordo. E tuttavia, per penose che fossero poi tali scene, bisogna riconoscere che nei primi tempi il genio del popolano francese ispirava a Morel, gli faceva incarnare delle forme incantevoli di semplicità, di apparente franchezza, persino di un'indipendente fierezza che sembrava dettata dal disinteresse. Era falso, ma il vantaggio dell'atteggiamento era tanto più a favore di Morel in quanto, mentre chi ama è sempre costretto a tornare alla carica, a rincarare, per chi non ama è invece agevole seguire una linea retta, inflessibile e graziosa. Essa esisteva grazie al privilegio della razza nel viso così aperto di quel Morel dal cuore così chiuso, un viso ornato dalla grazia neoellenica che fiorisce nelle basiliche della Champagne. Malgrado la sua finta fierezza, spesso, scorgendo Charlot in un momento in cui non se l'aspettava, Morel era imbarazzato davanti al piccolo clan, arrossiva, abbassava gli occhi, mandando in estasi il barone che ci vedeva tutto un romanzo. Era semplicemente un segno di irritazione e di vergogna. La prima, di tanto in tanto, trovava espressione. Infatti, sebbene i modi di Morel fossero per solito calmi ed energicamente decenti, essi non mancavano di smentirsi con una certa frequenza. A volte, a qualche frase del barone, esplodeva persino da parte di Morel una replica dura e insolente che metteva tutti a disagio. Charlot chinava tristemente il capo, non rispondeva nulla, e con la capacità di credere che nessuno abbia notato la freddezza, la durezza dei figli, tipica dei padri idolatri, non smetteva per questo di cantare le lodi del violinista. Charlot, d'altronde, non era sempre così sottomesso, ma le sue ribellioni in genere non conseguivano il loro scopo, soprattutto perché, abituato a vivere con persone del gran mondo, nel calcolare le reazioni che poteva destare, egli teneva conto, se non della viltà originaria, di quella acquisita attraverso l'educazione. In Morel, invece, incontrava qualche velleità plebea di indifferenza momentanea. Disgraziatamente per lui, Charlot non capiva che per Morel tutto cedeva davanti alle questioni in cui entravano in gioco il conservatorio e la buona reputazione in conservatorio, ma questa, che doveva essere la più grave, per il momento non si poneva. Così, per esempio, i borghesi non esitano a cambiare nome per vanità, gli aristocratici per vantaggio. Per il giovane violinista, al contrario, il nome di Morel era indissolubilmente legato al suo primo premio di violino, dunque impossibile da modificare. Charlot avrebbe voluto che Morel prendesse tutto da lui, compreso il nome. Avendo notato che il nome proprio di Morel, Charles, era simile a Charlot e che la proprietà in cui si incontravano si chiamava Le Charme, cercò di persuadere Morel che un bel nome, gradevole da pronunciare, era la metà d'una reputazione artistica e che il virtuoso doveva dunque assumere senza esitazioni il nome di Charmel, allusione discreta al luogo dei loro appuntamenti. Morel alzò le spalle. Come ultimo argomento, Charlot ebbe la malaugurata idea d'aggiungere che un suo cameriere si chiamava così. Non fece che eccitare la furibonda indignazione del giovane. «C'è stato un tempo in cui i miei antenati erano fieri del titolo di cameriere, di maggiordomo del re. Ce n'è stato un altro», replicò fieramente Morel, «in cui i miei antenati hanno fatto tagliare la testa ai vostri». Grande sarebbe stato lo stupore del signor di Charlot se, rassegnato com'era, in mancanza di Charmel, ad adottare Morel e a dargli uno dei titoli della famiglia Garmont di cui disponeva, ma che le circostanze, come si vedrà, non gli consentirono ad offrire al violinista, avesse potuto supporre che Morel avrebbe rifiutato, pensando alla reputazione artistica collegata al suo nome e ai commenti che si sarebbero fatti al corso. Tanto più in alto del Faubourg Saint-Germain era situata per lui la rue Bergère. Fu giocò forza per Charlot accontentarsi per il momento di far fare a Morel degli anelli simbolici recanti l'antica iscrizione Plus Ultra Carols. Certo, di fronte a un avversario d'una specie a lui ignota, Charlot avrebbe dovuto cambiare tattica. Ma chi ne è capace? Del resto, se Charlot era a volte maldestro, Morel non era da meno di lui. Ben più della stessa circostanza che provocò la rottura, ciò che doveva, almeno provvisoriamente, ma il provvisorio risultò poi definitivo, perderlo agli occhi di Charlot, fu che in lui non c'era soltanto la viltà per cui diventava strisciante davanti alla durezza e rispondeva alla dolcezza con l'insolenza. Parallelamente a questa bassezza di carattere, c'era in lui una nevrastenia complicata da cattiva educazione, la quale, risvegliandosi in ogni circostanza in cui era in colpa o si sentiva di peso, faceva sì che proprio quando avrebbe avuto bisogno di tutta la sua gentilezza, di tutta la sua dolcezza, di tutta la sua allegria per ammansire il barone, diventava cupo, astioso, cercava di intavolare discussioni in cui sapeva di essere in disaccordo con lui, sosteneva il proprio punto di vista ostile con una debolezza di ragioni e una violenza perentoria che aumentavano questa stessa debolezza. Infatti, ben presto a corto d'argomenti, non rinunciava ad inventarne altri, nei quali si palesava tutta l'estensione della sua ignoranza e della sua stupidità. Quando era gentile e cercava solo di piacere, esse trapelavano appena. Al contrario, non si vedeva più altro nei suoi accessi di malumore, durante i quali da inoffensive diventavano odiose. Charlot, allora, si sentiva esasperato, riponeva ogni speranza in un domani migliore, mentre Morel, dimenticando che il barone lo faceva vivere fastosamente, affermava con un sorriso ironico di superiore pietà: «Non ho mai accettato niente da nessuno, e così non c'è nessuno cui debba dire grazie».